Oh! quell'ome. Quell'ome. Ma possiamo, chiede perdono, ma venire non può. Perché gridi? Lasciatela! Thank you. falsa di vecchio è morta. Oh, e lì, correndo, le spieremo tutti, l'animo peso, l'animo peso. Si vendicherò. So Go to the ball! 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。